di 15 giorni l'andamento di indicatori ufficiali, appunto delle statistiche ufficiali, tipo la volontà dei consumatori appunto di consumare o la capacità delle imprese di investire, volontà di investire. Quali sono, se ci sono, i rischi di distorsione di un'analisi di questo tipo? Penso alla rappresentatività della popolazione italiana, perché ovviamente derivando solo dalle discussioni sui social include il fatto che si occupa solo delle persone presenti sui social. Per quanto riguarda il campo di applicazione, è chiaro che i dati social o comunque i dati che si trovano in rete non potranno mai essere rappresentativi, diciamo, della popolazione demografica di un paese, però sono quei dati che permettono di raccogliere quello che noi chiamiamo segnale forte. Segnale forte vuol dire che, ad esempio, se io voglio sapere chi vince le elezioni, anche se non voglio sapere esattamente il valore numerico della vittoria, questo dato sicuramente passa sui social, perché i social tendono ad amplificare quello che è il sentire generale della popolazione. Quindi è possibile che io non trovi il commento estremo, quindi una persona che è politicamente poco rappresentata in rete, però quello che posso fare è cogliere il segnale di chi vincerà le elezioni. E noi praticamente dal 2012 e continuamente abbiamo fatto le nostre, tra virgolette, previsioni elettorali, mostrando proprio, quindi la notte prima delle elezioni, quale sarebbe stato il risultato, con errori statistici veramente bassi comparati ai sondaggi tradizionali. In altri campi non è possibile, quindi se io voglio conoscere l'opinione di una sottocategoria della popolazione che è poco rappresentata e poco visibile in rete, chiaramente quell'opinione non posso estrarla. Bikeology. Si intitola Happy Bike, pedalando verso la felicità, è un libro sull'utilizzo della bicicletta come soluzione per i problemi della mobilità cittadina, ma anche come strumento di cambiamento interiore, alla conquista della felicità, appunto. L'autore è Alfredo Bellini, fondatore e direttore di bicizen.it. Ciao Alfredo, bentrovato. Buongiorno a tutti. Perché questo libro? Perché oggi più che mai si sente l'esigenza di essere, ritornare a una felicità delle città. Tutti noi abbiamo diritto di essere felici, però le condizioni in cui viviamo non sono proprio il massimo, soprattutto legate a un discorso di mobilità. Le conseguenze del modello, diciamo, urbano basato sull'automobile sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che sia necessario ritornare a riprodarsi un attimo nei nostri spazi, lo spazio delle strade. Ecco che, diciamo, il libro pone l'accento sul rapporto proprio persona-città, su come sia importante tornare a ripensare le strade come luogo di aggregazione e la forza proprio dei legami sociali a rendere una città più felice. Quindi io credo molto che oggi più che mai sia necessario ritornare, e anzi a un po' come era una volta, quindi a una città relazionale in cui si ha la possibilità di tornare a parlarsi, a riascoltarsi, e quindi la bicicletta secondo me è una splendida opportunità per ritornare, per trasformare le città e trasformare noi stessi ripensando al nostro stile di vita individuale. Tu non solo nel libro, anche nel blog parli di una vera e propria ciclosofia. Il termine mi piace molto, una sorta di approccio alla vita a due ruote, che è anche un po' lo spirito di questa nostra rubrica Bikeology. Sì, la bicicletta appunto può essere anche uno strumento per meditare, è una possibilità come cura di sé. Anche il modo in cui si va in bicicletta può cambiare una giornata, quindi non è soltanto andare da un posto ad un altro, ma utilizzandola così, la bicicletta, come mezzo di cambiamento, può portare veramente delle rivoluzioni interiori. A me è successo, a me ha cambiato la vita, perché anch'io prima, tanti anni fa, ero uno di tanti automobilisti che utilizzava appunto la macchina sempre e comunque. Da quando ho iniziato a prendere la bicicletta la mia vita è cambiata, vado al lavoro in bici tutti i giorni, in una città chiaramente non semplice ormai come quella di Napoli, però in ogni caso ho visto i benefici che la bicicletta mi ha portato e vedo che anche tante altre persone lo stanno facendo, quindi questo sicuramente è incoraggiante. Nel libro racconto come ci sono anche degli esercizi di meditazione, di ascolto di nuovo con se stessi attraverso l'uso della bicicletta. Grazie ad Alfredo Bellini per essere stato con noi. Grazie a voi. Essere e avere. Trilli, questi nuovi colori autunnali per le foglie sono davvero meravigliosi. meravigliosi, sì, belli e anche brillanti. Dov'è il rosso? Ci sono! Coccinella e un tocco di scoiattolo. Un debole per gli acquerelli. Un po' di bocciole di rosa e di ciliegia. Ma fallo rosso. Eccolo, ecco il rosso che sto cercando. Focus sui trend. Non più solo vestiti e accessori, materiali super organici, parliamo di fiori, fango, alghe, funghi persino, arrivano nel design, nel packaging, nell'architettura, dalla casa di argilla e sabbia a chilometro zero, fatta, pensate, con stampante 3D, ai fondi di caffè riciclati per coltivare funghi domestici, fino alle etichette intelligenti organiche per tenere sotto controllo la scadenza dei cibi, insomma, diventano protagonisti i biomateriali. Sono oggetti frutto di cicli di vita della materia e cicli produttivi molto insoliti, anomali, ma ad alto tasso di innovazione. Ne parliamo, li raccontiamo con Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buongiorno Maria Luisa. Ecco, senz'altro stiamo da qualche anno osservando casi che nascono in diverse parti del mondo con alto tasso di innovazione, come hai detto, proprio perché i progettisti e le aziende sono completamente liberi, sperimentano e creano i veri e propri laboratori di design generativo. E in Italia succede molto spesso che siamo anche dei grandi pionieri. Partiamo subito da uno degli esempi che mi hai anticipato, è un esempio proprio italiano, la casa fatta con la stampante 3D. WASP è un gruppo che dedica la sua ricerca da tanti anni nell'ambito della bioarchitettura e hanno creato una gigantesca stampante 3D, cioè addirittura arriva a 6 metri per costruire delle case fatte con un impasto di argilla e sabbia a chilometro zero, perché i materiali sono reperibili sul posto, si aggiunge l'acqua, hanno fatto questo esperimento veramente interessante in Sardegna, i costi per costruire una casa sono irrisori, lo sappiamo, si possono veramente costruire delle unità abitative piccole ovviamente di forma organica. Poi questa riscoperta mi hai segnalato questo nuovo utilizzo dei funghi, raccontiamolo. Nei paesi anglosassoni, soprattutto nel UK, si stanno creando sempre di più delle fattorie urbane di funghi. Tutti vogliono coltivare dei funghi, anche perché adesso il compost dai scarti industriali è la nuova frontiera. E ci sono vari progettisti che aziende che immagino futuri diversi sempre partendo dall'utilizzo dei funghi. Un progetto interessante con un'estetica sicuramente diversa ma geniale è la MYX Lamp di Jonas Edward. Lui ha creato una lampada molto semplice che è un mix tra fibre di micelio del fungo, perciò fungo, e fibre vegetali. Veramente un progetto unico, perché la superficie della lampada, che è un oggetto funzionale, può anche diventare una superficie per coltivare i pleurotus, cioè un fungo commestibile che lo compriamo ogni giorno al supermercato. Ecco, Jonas Edward esplora i confini del design di questo tipo di prodotto, dove il consumatore può interagire con la produzione dell'oggetto e permette all'organismo naturale di prendere il controllo del metodo di produzione industriale. Cioè, la lampada incuba questo fungo in 3 settimane e dopo vengono raccolti, per poi asciugato il paralume e diventa un oggetto normalissimo. I funghi commestibili anche come kit da coltivare in casa, c'è GrowCycle, è un'azienda inglese che ha immaginato un riutilizzo dei fondi di caffè in solido. Perché all'interno di questo kit ci sono i fondi di caffè, il consumatore aggiungendo l'acqua può produrre i suoi gourmet mushrooms. Sono dei funghi che vanno molto di moda e sono in vendita nei migliori punti alimentari nel UK. Tra gli altri biomateriali, tu mi hai segnalato anche le alghe che in questo momento vengono sperimentate. Quali altri bioutilizzi, chiamiamoli così, Lucia, possiamo segnalare? Hai ragione, perché Jonas Edward, che è quello del MYX, la lampada che abbiamo citato prima, è sempre molto attento all'utilizzo dei biomateriali e adesso sta proponendo una linea di prodotti, l'ha chiamata terroir, chissà perché, utilizzando l'alga Fucus. È un'alga speciale che si può raccogliere a mano nelle coste danesi, è elaborata con carta e colla, crea un materiale veramente bello anche da vedere, con una superficie ovviamente anomala, ma sicuramente di un grande fascino dal punto di vista di ricerca. E poi anche i fiori? Oh sì, Marcin Rusak, che è terza generazione di venditori di fiori, neolaureato alla prestigiosissima Royal College of Art quest'estate, ha lanciato una linea di prodotti in fase sperimentale ovviamente, tra cui il Perishable Vase, dove lui immagina la rielaborazione degli oggetti con i petali di fiori appassiti, scartati dai negozi, e lui sfida questo mondo bello e perfetto creando questo vaso che, oltre ai fiori appassiti, cioè, ha aggiunto anche la cera d'ape, la farina, la resina di alberi, e crea un vaso veramente incredibile dal punto di vista estetico. È un prodotto che invecchia e questa è anche parte della sua sfida. L'ultimo caso che mi hai segnalato è un utilizzo, per così dire, funzionale dell'organico, addirittura per le etichette dei cibi. È una innovazione assoluta, arriva sempre dall'UK, dal Regno Unito, ha vinto il James Dyson Award, che è un prestigiosissimo award inglese. La giovane progettista Solveiga Pasteike ha immaginato un utilizzo straordinario di una gelatina bioreattiva fatta di proteine che, se posizionata all'esterno della confezione degli alimenti, ci può segnalare la data di scadenza dei cibi. E come funziona? Perché è una cosa veramente impressionante. Degrada con gli stessi tempi del cibo contenuto e così in rilievo uno può vedere sulla confezione se il prodotto è fresco o se è verso la scadenza. È molto interessante perché anche i non vedenti possono, toccando l'etichetta sulla confezione, capire se va comprato o no. E comunque il progetto sensibilizza la gente nei confronti dello spreco del cibo. Certo, quindi se la superficie dell'etichetta, chiamiamola così, rimane liscia, il cibo è ancora perfettamente conservato, se inizia ad avere qualche rilievo vuol dire che inizia a deperire, quindi c'è un warning, per così dire, per la scadenza. Siamo in chiusura, Lucia, voi per questa tendenza, voi di Future Concept Lab, parlate di shocking cycle, ecco, ciclo di vita e ciclo produttivo, è così? È proprio così, perché non dobbiamo dimenticare che il consumatore è da anni interessato ai prodotti che rispettano le risorse naturali, che sono naturali, eccetera, eccetera. Ma in questo momento quello che succede è che il consumatore rifiuta le idee scontate e povere in termini di sperimentazione. È per questo motivo che ha tratto della diversità e l'irregolarità della tendenza shocking cycle, perché cambia la produzione, sparisce la catena di montaggio intesa nel senso classico, si accorciano i tempi, si produce in qualsiasi contesto e cambia anche il ciclo di vita del prodotto. Spesso il prodotto invecchia, a volte si disintegra, anche completamente, ma ancora più spesso si autorinnova. Ecco, questa è la vera innovazione, cioè sposare creatività e ricerca tecnologica e scientifica. E il consumatore avanzato non teme di investire il suo denaro a questo tipo di progetti. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, a questo punto per la riflessione finale Francesco Morace. Ben ritrovato, Francesco. Buongiorno Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Oggi di cosa ci parli? Oggi vi parlo di carattere, perché è molto importante capire che in tempi così duri tirare fuori il carattere è un elemento chiave anche per comunicare in modo nuovo. Il carattere è unico, ognuno di noi è un mix un po' magico tra patrimonio genetico, influenza dell'ambiente e poi la straordinaria anche presenza del caso, no? Della fortuna. Ecco, mentre per molti anni la comunicazione ha cercato di imporre delle regole e quindi il carattere veniva in qualche modo plasmato, oggi bisogna fare un po' il contrario, partire dal nostro carattere che è sempre unico e poi naturalmente creare i ponti per comunicarlo agli altri. Quindi in qualche modo dall'omologazione che abbiamo visto spesso in comunicazione negli anni passati all'unicità, alla sostanza delle cose. Alla sostanza delle cose e quindi anche al coraggio, dovessi dire una qualità di cui oggi tutti noi abbiamo bisogno, anche le aziende, è il coraggio. E oggi, ad esempio, nei cinema sono presenti storie, film e personaggi tutti con grande coraggio. Pensiamo, Clint Eastwood da sempre lavora con questo, quindi American Sniper, ma anche Stila Alice, che è un film che racconta la storia di una donna molto coraggiosa che affronta in modo originale la propria malattia, che è l'Alzheimer. Ecco, quindi su questo le aziende e i professionisti devono, credo, imparare da questi personaggi. Ecco, per le aziende, i professionisti, per le istituzioni anche, vorrei dire, Francesco, coraggio vuol dire responsabilità in questo momento. Esatto, questo è il passaggio strategico fondamentale. E il coraggio e il carattere non deve portare a una chiusura su di sé e quindi a una pretesa che gli altri ci capiscano. Dobbiamo partire dal carattere prendendoci le responsabilità delle nostre azioni, ma creando anche una relazione nuova. Grazie a Francesco Morace, a domenica prossima. Grazie a voi. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per ringraziare in regia Gianmarco Ferronato e darvi appuntamento a domenica prossima alle 15. Come sempre, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.